Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Da quarto al Volturno, Noterelle di uno dei mille, di Giuseppe Cesare Abba. 31 maggio. Il generale ha fatto un giro per la città dove ha potuto passare a cavallo. La gente si inginocchiava, gli toccavano le staffe, gli baciavano le mani. Vidi alzare i bimbi verso di lui come a un santo. Egli è contento. Ha veduto delle barricate alte fino ai primi piani delle case, 8 o 10 ogni 100 metri di via. Ora sì, che possiamo dire di avere tutto il popolo dalla nostra. Siamo perduti in mezzo a questa moltitudine infinita che ci onora, ci dà retta, ci scalda di amore. Non vi è più dubbio. Simonetta è morto. Abbiamo incontrato un picciotto con una camicia a riquadri rossi e bianchi. Margherita lo fermò. Dove hai preso codesta camicia? L'ho levata ad un morto. Dove? Ai Benedettini. Vieni con noi. Un buco nella camicia mostrava che il povero amico nostro fu colpito al cuore. Morì quel candido e forte giovane, senza uno di noi vicino da dirgli: «Ne parlerai a mio padre». Corremmo ai Benedettini, cercammo, nulla. Non si sa nemmeno dove l'abbiano sepolto. Mancano tanti altri, di tutte le compagnie, che non sappiamo se siano morti o feriti in qualche casa. 3 giugno, mattina. Immensa gioia. Non si pensa più alle case cadute, alle centinaia di cittadini sepolti sotto. I regi se ne andranno, la capitolazione è come fatta. Incrociamo le braccia sul petto e diamoci uno sguardo attorno. Ma si è potuto fare tanto. Mi pare di sentire qualcosa nell'aria, come il canto trionfale del passaggio del Mar Rosso. Questi marinai della squadra inglese ci fanno cera più che i nostri del governolo e della Maria Adelaide. Verso sera, quando andiamo barcheggiando, i francesi, gli austriaci, gli spagnoli, i russi, persino i turchi ci sono, tutti ci guardano curiosi, ma zitti. Invece gli inglesi ci chiamano, ci tirano su a occhiate sulle loro navi, e noi si sale, accolti come ammiragli. Non hanno bottiglia che non vuotino con noi. Non han gingillo che non ci offrano, non c'è angolo della loro nave che non ci facciano vedere. Stiamo con essi delle ore, belli o brutti ci vogliono ritrarre a matita, e non ci lasciano venire via senza essersi fatto dare il nome da ognun di noi, scritto di nostra mano. Mi è nato un sospetto. La Sicilia è bella, è ricca, è un mondo. Oramai tra tutti l'abbiamo, quasi staccata dal regno. Se non si riuscisse a fare l'unità, gioco che la mano per pigliarsi l'isola sarebbero visi di stenderla agli inglesi. Non ci hanno qui nel porto la nave ammiraglia che si chiama Hannibal? Sette giugno. Nella gran sala della Trinacria si desinava una allegra brigata a festeggiare un drappello di animosi venuti da Malta, sud una barca peschereccia. Scesero a scoglietti e, camminando a furia di sproni e di oro, vennero difilati a Palermo. Lo champagne affiottava dai bicchieri dal cuore la gioia. Gioia della vostra, o anime lombarde. Siete leggiadri e prodi. Nove giugno. Li abbiamo visti partire. Sfilarono dinanzi a noi alla marina per imbarcarsi, una colonna che non finiva mai, fanti, cavalli, carri. A noi pare sogno, ma a loro passavano umiliati o baldanzosi. Superbi cacciatori dell'ottavo battaglione che combatterono a Calatafimi e qui, lasciando qualche morto in ogni punto della città. Certo li comandava un valoroso. Se ne vadano. E che ci si possa rivedere amici, ma di qui a Napoli com'è lunga la via. Dieci giugno. Tucori è morto. Non in faccia al sole. Non sotto gli occhi nostri nella battaglia. L'anima sua non è volata via sulle grida dei vincitori. Egli si è spento a poco in letto, vedendo la morte venire lenta Egli, che soleva andarle incontro galoppando baldo con la spada nel pugno. Gli avevano tagliata la gamba, rottagli da una palla al ponte dell'ammiraglio. Si diceva che l'avremmo visto ancora a cavallo dinanzi a noi. Ma venne la cancrena e lo uccise. Giugno. Per la via che facemmo da Marsala al Pioppo, e poi essi dal Pioppo in una volata, sono giunti qua 60 giovani condotti da Carmelo Agnetta. Navigarono da Genova a Marsala su di un guscio che si chiama L'Utile, dove avranno dovuto stare pigiati peggio che i negri menati schiavi. Che senso, quando sbarcarono a Marsala dopo essere stati col cuore a un filo per tanti giorni. E poi quando passarono vicino ai nostri colli di Calatafimi, avranno pensato ai morti che vi lasciammo, con la malinconia di non averli conosciuti vivi. Ma quando arrivarono a questa Palermo mezza rovinata, debbono avere sentito l'animo crescere irato, e avranno tesa la mano ognuno guardando innanzi e dicendo a qualcuno laggiù, «Ci vedremo». Hanno portato 2 migliaia tra schioppi e schioppacci e munizioni da guerra e i loro cuori. C'è Odoardo Fenoglio, veneto da Oderzo, amico mio, sfolgorante ufficiale della Brigata Pavia, che ho visto e abbracciato ai 4 cantoni. C'è Cavalieri, c'è Frigerio, tutti valenti e gentili e colti, arrivati in tempo per onorare la salma di Tucori, che oggi porteranno a seppellire. C'eravamo tutti, fino ai feriti che hanno potuto venire fuori dalle case, dagli spedali, tutti, Tur. Figura tagliata nel ferro, non fatta a mostrar dolore. Camminava alla testa del corteo, dimesso, accorato. Parea condotto a morire. Dalle finestre piovevano fiori sul feretro, su noi, e dai fiori e dalle foglie di lauro veniva un odore che mi faceva il senso di un soave morire. Si aggiungevano il silenzio della folla e gli atti delle donne bianche, inginocchiate sui balconi e piangenti. Era uno sgomento, che pareva avesse pigliato fin le pietre. Vidi certi dei nostri, duri e invecchiati a ogni sorta di prove, andare innanzi con faccia sbigottita, spenta. Un momento che mi si strinse più il cuore, mi pregai con certa volontà acre, non mai provata, mi pregai di essere chiuso in quel feretro abbracciato col morto, o star nella bara con tanto ancora di vita da sentirsi portato lentamente, indovinando le vie, le finestre sotto cui si passa, le facce di quei che guardano e accompagnano fin dove possono con gli occhi, e poi col pensiero. La folla fa ala, parlano a voce bassa, che diranno? Cade qualcosa, saranno fiori. Ma la marcia funebre prorompe alta nell'aria, e vien sì fra i 4 assi con certi acuti stridori di trombe, con certi gemiti di flauti, che si mutano in lacrime. Anche Adolfo Azzi morì son 7 giorni. Come stava là sul Lombardo nelle ultime ore del mare, con le braccia potenti al timone, con gli occhi in bixio, che di sul cassero fulminava l'anima tra Marsala vicina e le navi che ci inseguivano nere come leonesse nel deserto. Lo veggo ancora e lo vedrò finché io viva, con quella faccia sfidatrice e quieta, con quelle spalle ampie, scamiciato ed erto i pettorali fatti per ricevervi la morte da eroe. Invece fu colto in una coscia. Gli entrò la palla, irruppe, e in 5 giorni il povero Azzi morì. Convento della Trinità. Ho visitato il colonnello Carini in una cameretta lassù e dell'albergo alla Trinacria. Dove se n'è andata tutta quella floridezza di carni? Tenendomi per la mano, mi chiese del dittatore, della compagnia, degli amici. Poi, d'improvviso, c'eravate ai funerali di Tucori? Colonnello, sì. Egli guardò intorno e mi strinse più forte la mano. Giugno. Ippolito Nievo va solitario, sempre guardando innanzi, lontano, come volesse allargare a occhiate l'orizzonte. Chi lo conosce Viene in mente di cercare con lo sguardo dove ei si fissa, se si cogliesse nell'aria qualche forma, qualche vista di paese della sua fantasia. Di solito si accompagna qualcuno delle guide, Missori, Nullo, Zasio, Tranquillini, ed oggi era con Manci, a cui veggo negli occhi i laghi del Tirolo verde, ove ei nacque. Quando incontro costoro, vestiti ora di un uniforme di garbo un po' ungherese, bello, già illustrato nel 49 dalla cavalleria di Masina in Roma, io mi sento nascere di dire: «Uno di voi mi vorrete in groppa quando galopperete per i campi nella battaglia». Palermo, 17 giugno. Non li ho visti, ma so che da giorni sono venuti dalla Favignana 6 o 7 di quei di Pisacane scampati all'eccidio di Sapri. Dunque, erano in quelle egadi, che pareano scoppiate su dal mare improvvise a festeggiarci? Erano nelle prigioni sottomarine. Che fremito se per uno di quei sensi misteriosi che talora si rivelano in noi come guizzi di una vita di natura diversa dall'umana, avranno indovinato che là fuori, sull'onda che rumoreggiava spruzzando le loro inferriate, passava Garibaldi e la Libertà. O precursori nostri, quante lacrime, quanto fantasticare dopo il vostro infortunio, dopo Sapri, più bello, più glorioso della nostra Marsala, 3 anni. Pareva un secolo, e di lassù dalle Alpi era un volo dell'anima sitibonda verso queste terre delle due Sicilie che sin col nome invogliavano e coi mari e coi cieli e con l'istoria loro e con quel canto della spigolatrice messa dal poeta sull'orme vostre a veder gli occhi azzurri e le chiome d'oro di Pisacane. Dopo i Bandiera, Corradino, Manfredi, biondi tutti e belli e di gentile aspetto, lui. Mi dice Antonio Semenza che tra le carte del Palazzo Reale fu trovato l'ordine dato da Napoli alla flotta se ci avesse incontrati. Colarli a fondo salvando le apparenze. Sarà vero? Infatti saremmo stati troppi alle forche e agli ergastoli, ma che nella marineria napoletana ci sarebbe stato un cuore da obbedire e annientarci. Da Palermo a Milazzo. 18 giugno. Partire non condotti dal dittatore. Eppure egli ha sulle braccia la rivoluzione, la guerra, tutto, anche gli arruffapopoli, e deve stare qui. Con lui lavora Francesco Crispi, un ometto che quando lo vedo mi fa pensare a Pier delle Vigne e Potente. Ma lontani da Garibaldi saremmo ancora con lui. Andate di buon animo, ci disse. Andate, figliuoli, che vi ho dato tour. Se avrò bisogno di voi, egli vi condurrà volando da me. E poi, messosi a parlare genovese con alcuni di noi liguri, parve pigliasse un piacere fanciullesco in quel dialetto che parlano Bixio e i carabinieri. . 21 giugno. Medici è arrivato con un reggimento fatto e vestito. Entrò da Porta Nuova sotto una pioggia di fiori. 40 ufficiali con l'uniforme dell'esercito piemontese formavano l'avanguardia. La mia brigata è partita per l'interno dell'isola condotta da Tour. Noi della spedizione dispersi nell'onda dei sopravvenienti, porteremo con noi le memorie dei 25 giorni vissuti come nella solitudine, faticando, combattendo e credendo. E tireremo innanzi visitando l'isola, facendo gente e pellegrinando, finché ci arresti il nemico e si torni al sangue, o si finisca fondendoci tutti nelle sorti e nell'onore d'Italia. Da Palermo a Misilmeri, 22 giugno. 2 cavalli bianchi e valiosi che starebbero bene tra le gambe di 2 dragoni ci portano via tirando questa carrozza da principi. Romeo Turola sonnecchia, io noto. Ho riveduto Porta Sant'Antonino, il convento e quella muraglia che all'alba del 27 maggio, quando venimmo, balenava e tuonava come una nuvola tempestosa. I due grandi pioppi, a piede quali quel mattino vidi il primo napoletano morto, tremolavano sino all'ultima foglia con un sussurro allegro quasi consapevole. Passandovi sotto, pensai, raccapricciando a quel morto, a quella povera montanara della Calabria o dell'Abruzzo, che si farà sulla soglia della capanna con una paura confusa della guerra che c'è per il mondo, dove forse crede ancora di avere il suo figliuolo soldato. E pensai anche ai principi di casa Borbone, che sino ad ora non se n'è visto uno a cavar la spada. Mi volgo indietro. Palermo è laggiù. Laggiù come la vedevamo da Gibilrossa, dal parco, dal passo di Renna, ma ora è libera nella sua gloria fra le sue rovine di giorno e di notte, tutta un festino. Partendo ho inteso che già sono arrivati certi armigioni a guastare. Ve ne erano forse fino dai primi giorni della capitolazione. Quella sera che ci raccolsero in fretta e in furia e ci tennero sotto l'armi delle ore in via Macheda, che cosa era stato? Mi dissero Vighi che si parlava di un'alzata di La Masa per togliere a Garibaldi la dittatura e assumerla lui, gridato dal popolo. Era una calunnia, ma il fine... Silmeri, 22 giugno. Questo popolo, che ci ha fatta la luminara la notte del 25 maggio, quando eravamo pochi e con poche speranze, adesso non ci riconosce più. Ma che cosa abbiamo fatto? Non lo dicono e non si può indovinarlo. Parlano, sorridono, sono gai, discorrono con noi, ma a gesti impercettibili se la intendono tra loro, che abbiano dentro parecchie anime. Ora si va pigliando davvero un bel fare da soldati. Il gruppo di ufficiali che ho visto in piazza sarebbero l'onore del primo esercito del mondo. Tutti nel bello dai 20 ai 30 anni, persone salde, facce che vi si legge il coraggio semplice e franco, medici, ingegneri, avvocati, artisti. Ma se fossero tutti come Daniele Piccinini, non l'hanno guasto né l'ozio né i vizi, costui. La storia della sua giovinezza l'ha in fronte. Forse più che cacce e corse su in Alpe, non ebbe altri spassi. A Calatafimi fu visto coprire il generale mettendoglisi dinanzi, perché come indossava camicia rossa era fatto segno alle schioppettate, e in uno dei momenti che la battaglia parea volgere a male, egli tenne alto l'animo dei suoi vicini, gridando parole potenti come d'arcangelo. Frati, 24 giugno. Passavano baldi su certi stalloni neri, carboni accesi gli occhi, le criniere che davano sui petti. Tenevano alte le teste guardandoci appena. Avevano gli schioppi a tracolla, pistole e pugnali a cintola, nastri essi ai capelli e all'arnese delle cavalcature. Il capo che camminava innanzi non mi tornava nuovo. I villafratesi che discorrevano con noi li guardavano incerti tra il salutarli e non badarli, ma mi accorsi che qualcuno ammiccò. Qualche altro scambiò con essi quei certi cenni, raggrinzamenti della fronte, d'una guancia, del mento, diavolerie che a costoro bastano per un discorso. «Chi sono quei sette?» chiesi ad un signore. «Patriotti, signorino. Non avete visto? Hanno i tre colori». Un altro lo guardò bieco. Un lampo. Intanto quei sette, giunti in capo al borgo, misero i cavalli a trotto serrato. Ma dal quartiere del generale uscì fuori un tenente, spronando dietro di loro, e presto... lo vedemmo tornare con quei sette disinvolti, beffardi, accigliati. Il tenente li aveva presi con la pistola alle tempie del capoccia, pronto se non avessero obbedito. Ci affollammo in quella casa dove era già un gran brusio e potemmo udire la voce del generale Tur corrucciato pronunciare il nome di Santo Mele. «Santo Mele», dissi io. «Ma costui è quel birbante che avevamo prigioniero al passo di Renna e che gli riuscì a fuggire. Berrebbe il sangue, ladro, assassino». A quest'antifona, il signore che aveva detto bene di quei sette, sparì senza neanche dirmi, bacio la mano. Udimmo bisbigliare. Consiglio di guerra subitaneo, e comparve il maggiore Spangaro, un uomo d'età seria, già brizzolato, capelli e barba, ufficiale, nella difesa di Venezia. Presiderà il consiglio. Villa Frati, 26 giugno. Ho visto partire in gran fretta il battaglione Bassini. A Prizzi, che deve essere un villaggio poco lontano, vi è gente che si è messa a far sangue e roba come se non vi fosse più nessuno a comandare. Il padre Carmelo sapeva quel che diceva quando ci parlammo al parco. Qua giù vi sono beni grandi, ma goduti da pochi e male. Pane, pane. Non ho mai sentito mendicarlo con un linguaggio come questo della poveraglia di qui. Bassini si è messo in marcia, ma non dell'umore suo di quando odora il pericolo. Questo brontolone gaio, senza gingilli, di corteccia grossa, ha un cuore che parla dalla faccia burbera e bonaria. Agita la testa rasa, grigia, nocchiosa come una mazza di armi da picchiare sul nemico. Avrà forse un mezzo secolo ormai, eppure è più giovane di noi, e a Calatafimi tenne la sua compagnia come a una festa. I suoi ufficiali, tutti signori di Lombardia, gli stanno sotto come un padre. Se in Prizzi gli occorrerà di dover parlare di legge, ha nel battaglione i dottori a dozzine. Se vorrà fare una arringa, i letterati gli stanno attorno, ma egli breve tagliente parlerà con la spada. Chi laggiù ha le mani lorde, badi ai fatti suoi. Villa Frati, 26 giugno. E non ci è stato verso di trovare uno che abbia voluto dire la verità, il testimonio che abbia detto più male di Santo Mele dinanzi al consiglio di guerra fu Santo Mele. Io, brigante, eccellenza, ho combattuto contro i borbonici, ho dato fuoco alle case dei realisti, ho ammazzato birri e spie, dai primi d'aprile servo la rivoluzione. Ecco le mie carte. E ne buttò là un fascio, bollate dai municipi dove è passato, tutte che ne dicono gloria come fosse Garibaldi. Ma il consiglio non lo mandò libero. Costui puzza troppo di sangue. E a Palermo, dove sarà condotto, qualcuno gli farà empire il cranio di piombo. Thank you.